and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. Aia Drago. Cosa c'è? Aia, non posso fare il programma oggi. Perché? Cos'hai? Ho la mano, mi fa male qua. E cosa hai fatto? Non lo so, ho mandato troppi sms forse, ma, sai, il tendine no. Si infiamma, no, si infiamma, è il movimento del pollice, ah così. Ma no, non farlo, vabbè però dai, finché devi parlare con me qui alla radio, la mano non è che devi usarla, no? Vabbè, non importa, mi fa male, soffro, pensa, mi deconcentro. Se uno può farsi male mandando degli sms. Vabbè, ma guarda che sono in tanti messi come me. Ma cosa? Come no, prendi il bambino Murray. Chi? Il quarto tennista della classifica mondiale, Murray. Si è infortunato la mano per troppa PlayStation e quindi è in forse per i prossimi tornei. Lui dice PlayStation, magari si è infortunato facendo altro, però non ci sono più i bei tennisti di una volta. Lo stesso è successo al bambino calciatore Nesta, si è rotto il tendine dal pollice sinistro sempre alla PlayStation. Vabbè, stessa cosa i calciatori, non ci sono più, stai bravo, non ci sono più i calciatori di una volta, ma tu te lo vedi Maradona che si fa male per i troppi videogiochi? Cioè Nesta sì, ma Maradona no. Vabbè, Maradona aveva altri passatempi, forse anche più pericolosi della PlayStation. Vabbè, avrà avuto i suoi vizi, però non si è mai infortunato per colpa dei vizi, cioè lui forza, se sniffi la coca il gesto, no? Non coinvolge mica muscoli, tendini. Perlomeno si era scelto un hobby che non confliggeva con la sua attività sportiva. Cioè vabbè, quindi meglio diventare un cocainomane che uno come Andy Murray. Vabbè, se poi aggiungiamo che il bambino tennista Murray l'anno scorso fu lasciato dalla fidanzata perché lui la trascurava a favore di... Che ne so, io mica mi occupo di gossip. Ecco, la trascurava a favore di Call of Duty, che è sempre un videogioco. Ah, lo preferiva alla fidanzata. Pare di sì. E quindi Call of Duty è più forte della gnocca. Ma io non ho mai giocato. Dai, potremmo provare Call of Duty con il bambino Premier. Ma smettila, dai. Drago, magari guarisce e non pensa più al Bunga Bunga. Ma figurati se basta un giochino elettronico. No, no. Contro il Bunga Bunga ci va un esorcismo. E poi il bambino Premier ha troppe cose da fare per pensare ai giochini elettronici. Tipo? Tipo respingere gli emigranti che chiedono asilo politico. E il tutto con la benedizione del bambino Gheddafi. Senti qua. La collaborazione è iniziata in molto, molto positivo, noi abbiamo consegnato delle imbarcazioni che puntano ad intercettare le imbarcazioni che portano qui degli emigranti al fine di riportare gli stessi in territorio libico, dove possono facilmente adire l'Agenzia delle Nazioni Unite per mostrare le loro situazioni personali e chiedere quindi il diritto di asilo in Italia. E adesso senti quello che dice Gheddafi, tradotto. Per quanto riguarda l'asilo politico, gli africani non hanno diritto all'asilo politico. Dicono solo bugie e menzogne. Questa gente vive nelle foreste o nel deserto e non hanno problemi politici, perché lì non ci sono né partiti né elezioni. Perché date così tanta importanza alla questione dell'asilo politico? Quante persone possono avere il diritto all'asilo politico? Milioni? Allora che cosa facciamo? Facciamo arrivare milioni di persone in Europa? È una cosa che fa ridere. E ora, bambini, ricreazione! Oh, la ricreazione, il momento più cinetico della giornata. Guarda che movimento, tutti che corrono, che saltano. Sì. C'è solo un punto fermo, immobile, è sempre quello lì. È inutile nemmeno chiedersi chi è. Bambino Alberto, cosa c'è oggi? No, qui ho un macello, ragazzi. Ma cosa c'è? No, datemi una mano voi, dai. Ma far cosa? Cosa? No, qui bisogna fare qualcosa per arginare l'invasione straniera, Ma quale invasione, dai? Vuoi che te lo spieghi così? Dai, ti do una spiegazione facilissima. Ecco. Siamo una società multietnica. Ecco. Basta questo multietnica, ma non mi piace. Ma perché? Bambino Bertrand Russell, credo che dovrai abituarti, perché quando sarai grande tu l'Italia sarà ancora più multietnica di adesso. Ho capito, ma almeno l'asilo, gli armadietti. Ma cosa gli armadietti? Gli armadietti, no? E ce ne sono pochi. E quindi? Ogni anno è una lotta per averne uno, no? Adesso con l'arrivo dei Bunga Bunga è diventato un inferno, No, con l'arrivo dei... dei Bunga Bunga, no? Gli africani. No, ma veramente, dai, bambino Alberto, stai dicendo delle grandissime castronerie e poi i tuoi amichetti africani non hanno soprannomi, tantomeno Bunga Bunga. Ma vedi come succede con questa spazzatura mediatica? Alla fine le parole però, diventano un'altra cosa. Io dico quello che sento in giro, appunto. Sento parlare sempre di Bunga Bunga. Ma sì, non c'entra con gli immigrati. Il Bunga Bunga è un rituale inventato in Italia, brevettato qui, tra l'altro anche per dirlo forse bisogna pagare le royalties, ed è praticato ad altissimi livelli, solo qui in Italia, quindi non c'entra, capito? Gli africani Bunga Bunga non c'entra. Sì, però intanto l'anno scorso avevo un armadietto tutto mio. E adesso il mio armadietto dell'anno scorso si era preso un butu. Butu è il, è il bambino africano, quello che vince sempre la gara chi ce l'ha più lungo. No, aspetta, quelle lì sono le gare che vinco io con regalo truccato, attenzione. Sì. Comunque butu adesso arriva la mattina, tutto pimpante, e mette tutte le sue cose nell'armadietto. L'armadietto che era mio, ma sì, vabbè, poi vedrai che te ne trovo. Allora io vado in super sbattimento, poi arrivano le goccine di Suor Dentona e tutte le altre menate, e c'è un circolo vizioso, perché poi le goccine mi danno assuefazione, ma sì, vabbè, danno assuefazione, non dico una roba da ridere, insomma, alla fine, se io avessi ancora il mio armadietto e i Bunga Bunga fossero rimasti nelle loro capanne di paglia e merda, io allora, io stavo meglio, no, Alberto, però non posso permetterti di esprimerti così, vabbè, ma lascia che si sfoghi, però, scusa, gli hanno rubato l'armadietto, capito, non gliel'ha rubato, è tutta una questione burocratica che sarà risolta, dai. Nel frattempo Alberto può usufruire dell'alloggio di Suor Dentone e mettere lì tutte le sue cose, vero Alberto? Ecco, dille le cose però, ecco, qui apriamo un altro capitolo, l'alloggio di Suor Dentone, e non perché bisogna parlarne adesso, infatti è interessantissimo, dai, allora, com'è? Prima di tutto è buio, completamente buio, è puzzolente, vabbè, è puzzolente, è vuoto, vabbè, niente, non c'è, cioè, è una cosa angosciante, non c'è niente, c'è il buio, è la puzza. Però c'è l'armadietto dei liquori. Ma no, ma quell'armadietto lì lo devi lasciar stare, è di un altro armadietto che parlavamo. Lascia stare l'armadietto dei liquori. Però vabbè, cosa ti devo dire? Cioè, se Suor Dentona ha l'armadietto dei liquori, pieno, perché ci sono un sacco di bottiglie, la roba da che può ubriacare un convento intero. Vabbè, ma li hai provati, come sono? No, li ho provati, sono di una dolcezza insopportabile, una cosa. Sì, però dopo che ne bevi 3-4 sorsi, e allora il gusto non lo senti più, Ma quindi adesso sei pure alcolizzato? Alcolizzato, che esagerazione, mi faccio un concerto ogni tanto, no? Sei sulla buona strada, è tutto per colpa dei Bunga Bunga. Sì, Bunga Bunga. Cosa? Cioè io con i Bunga Bunga, cioè, lasciatemelo dire, che a me sti Bunga Bunga qui, li rimanderei molto volentieri nelle loro capanne di paglia e merda. Ma Andiamocene, cappa, io non posso più sentire queste cose. Merda secca, può darsi, però. Ma perché? Cosa ho detto? Cappa! Drago! Sai che roba? Ho detto solo che i Bunga Bunga delle capanne, no? Della merda secca, che poi è sterco, c'è mica niente di male, roba naturale, no? Cappa, Drago! Ho solo detto quello che pensano tutti! Allora, questi vanno. E io sai cosa faccio? Me ne vado nella stanza di Suor Dentona. Mi faccio mezza boccia di limoncello, di quello bello tosto, bello denso. Mezza boccia oggi e mezza domani. Tanto Suor Dentona non se ne accorge. Lei beve solo Uzu. E ora, bambini, il sonnellino. Adesso zitto che c'è il sonnellino. Ma a quest'ora? Lo so, ma sono le regole. Che palle, siamo due adulti. Sonnellino a metà pomeriggio non va bene per noi. Ci blocca la digestione poi. Ah, il pollice. Ma non abbiamo mangiato niente. Digestione. Vabbè, blocca la digestione di quello che ho mangiato ieri. Dai, okay. Stai zitto tu, il tuo dito che ti fa male. Respira profondamente e dormi. Ma se non ho sonno? Ma non puoi far finta, sono solo pochi far finta minuti. Di cosa? Di dormire, a forza di far finta poi magari ti addormenti davvero. Ma scusa, ma tu hai sonno? Io sì, anche se non ci fossi tu qui a rompere, io mi sarei già anche appisolato. Cosa fai adesso? Canto una ninna nanna. Ma se stai cantando, come fai ad addormentarti? Mi addormento cantando. Ma è impossibile, la ninna nanna non può essere cantata dallo stesso soggetto che deve addormentarsi. Ma è un controsenso, perché dovresti continuare a cantare fin dopo che sei addormentato. Ma se sei addormentato non puoi più cantare. E l'improvviso silenzio dovrebbe farti svegliare, quindi devi ricominciare a cantare fino a che non ti riaddormenti, ma poi a quel punto è di nuovo come prima e devi, capito, cappa. Cappa! Si è addormentato, lui. E adesso non ho più sonno io. Com'è che ha fatto? Si è cantato una ninna nanna. E com'è che faceva? Niente. Pure questo russa. Cappa! Domani e mandate vostre ninne e nanne a chiedoasilo@radio24.it. Yeah!